guardo dentro e siete vuoti, come le anime sul mio lavoro dove i materiali sono avvolti, come in Matrix, pupazzi solo corpi, vite attaccate a cavi, che stacco e siete morti, costretto a calmierare i vostri colpi, e non è un dramma, se qua stiamo i ferri corti, anno 2010, a zero ricordi, è speranza ciò che morti, di vedermi fallire, per poterlo dire, che era meglio se ti stavo a sentire, ma faccio il sordo e sento niente, per vostra fortuna realizzo un quarto di quello che ho in mente. Gente colta da deliri d'onnipotenza, intanto destabilizza la mia presenza. Vada come vada, non puoi tenermi a bada, voi con la tele a casa e non vi passa nada. Anime di cartone vedo intorno. Tu puoi cambiare il fondo, tu puoi cambiare il mondo, basta volerlo e per farlo ti basta un secondo. Anime di cartone vedo intorno. Tu puoi cambiare il fondo, tu puoi cambiare il mondo, basta volerlo e per farlo ti basta un secondo. Manichini in fila, sfilano in vetrina, tutti a guardare che finisca la clessidra. Non c'è nessuno che la gira, c'è chi qui sospira, dai la vita al caso, prendi da via e tira. La scommessa è dura per arrivare in cima, è ancora più dura per me con poca autostima, ma la mia testa si ostina a mettermi in riga e vivere ogni giorno come nuova sfida. E con l'età del mondo che mi confronto e valgo quanto il tempo che intercorre tra un'alba e un tramonto. Anime di cartone vedo intorno. Tu puoi cambiare in fondo, tu puoi cambiare il mondo, basta volerlo e per farlo ti basta un secondo. Anime di cartone vedo intorno. Tu puoi cambiare in fondo, tu puoi cambiare il mondo, basta volerlo e per farlo ti basta un secondo. Ora. Do vita a un burattino, lo costruisco e lo seguo da vicino. Lo vedo crearsi, crescere, formarsi, forse almeno lui potrà salvarsi. Mosso da desideri che tradotti sono fili, pesa pochi chili con puntali di pensieri. Terminato, lo guardo incantato, trasmette emozioni come un cartone animato. Il processo è metterci te stesso, come nella vita pochi lo fanno, tu fallo adesso. Dentro c'è tutto, sudore, cuore, passione, ed è per questo che ha più anima un cartone. Cambiare il mondo, basta volerlo e per farlo ti basta un secondo. Anime di cartone vedo intorno. Tu puoi cambiare in fondo, tu puoi cambiare il mondo, basta volerlo e per farlo ti basta un secondo. Anime di cartone vedo intorno. Tu puoi cambiare in fondo, tu puoi cambiare il mondo, basta volerlo e per farlo ti basta un secondo. Anime di cartone. Cambiare in fondo, tu puoi cambiare il mondo, basta volerlo e per farlo ti basta un secondo. Basta volerlo e per farlo ti basta un secondo.